Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio e buon inizio settimana a tutti quanti. Soprattutto, avete già avuto la terribile influenza di questa stagione? Voi direte: cosa c'entra Salva Danaio? Non sono i temi di cui si occupa Nicoletta Carbone, che peraltro salutiamo. Ce ne occupiamo invece anche noi questa mattina, perché molte mamme, molti papà sanno bene quanto è difficile gestire le giornate quando i bambini non possono andare a scuola per i malanni di stagione, e non sempre si può ricorrere a nonni o avere la disponibilità della babysitter se i piccoli devono stare a casa, magari per più giorni. Si crea in genere per un bel problema per le mamme lavoratrici. Allora, alla luce di tutto questo, è bene sapere che il quadro normativo sui congedi parentali si è arricchito di una serie di novità anche molto importanti, con alcune recenti nuove disposizioni legislative. Si tratta di una serie di aggiustamenti che consentono di usufruire in modo più flessibile dei permessi, e in alcuni casi si è anche un po' allargata la platea dei possibili fruitori. Cosa è successo? Che dal 1 gennaio di quest'anno è diventato più semplice gestire le assenze dal lavoro a causa della malattia dei figli, e sarà possibile anche fruire dei congedi anche ad ore. Diventa possibile anche sostituire in tutto o in parte il congedo parentale con la fruizione di servizi a tutela del bambino, come ad esempio i voucher per il babysitting. Ne abbiamo parlato anche in un'altra trasmissione. Sono questioni tutte quante molto importanti, anche perché non sempre gli ambienti di lavoro e questo sono molto elastici con le famiglie in questi frangenti. Allora, noi oggi vogliamo fare un punto sulle tutele del nucleo familiare in queste circostanze. Con la puntata di oggi anticipiamo di un giorno la nostra giornata dedicata al lavoro. Come sapete, da qualche settimana abbiamo avviato il ciclo di trasmissioni il martedì del lavoro, ma siccome domani, come sapete bene, abbiamo lo speciale dedicato ai risultati elettorali, allora abbiamo deciso di anticipare ad oggi. Con chi parleremo di tutto il panorama dei congedi parentali? Con i nostri consulenti del lavoro, esperti del Sole 24 Ore, Alessandro Rotaporta, che saluto. Buongiorno, benvenuto, bentornato. Buongiorno, grazie dell'invito. E buon inizio settimana anche a Maria Rosa Gheido, un'altra nostra consulente del lavoro, che per la verità stiamo trascurando da un po' di settimane, ma oggi volentieri riprendiamo appunto la collaborazione appunto con la dottoressa Gheido, che insieme ad Alessandro Rotaporta ha scritto molti articoli su questo argomento nelle ultime settimane. Dottoressa Gheido, buongiorno e bentornata anche a lei. Buongiorno e grazie. Allora, mamme e papà all'ascolto che non sapete come gestire queste situazioni con il vostro datore di lavoro, chiamateci all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Avete tutti i canali possibili per raggiungerci e per raccontarci se non vi è chiaro come poter gestire le giornate di lavoro in caso di malattia dei nostri figli, e poi vi racconteremo anche tutte le novità che riguardano i papà in occasione della nascita di un bambino. Prima di tutto questo, però, come sapete, la borsa. Quanto pare il mercato italiano si sta convincendo che l'esito elettorale potrebbe dare vita ad un governo stabile. La borsa guadagna il 2% questa mattina a Milano, e peraltro condiziona positivamente, visto che è proprio Milano oggi la grande osservata speciale d'Europa, condiziona positivamente anche tutte le altre piazze europee. Piuttosto scoppiettante la seduta anche a Francoforte, più 2 punti percentuali, Parigi più 1,40, Londra un po' più tranquilla invece più 0,59%. Ricordiamo che però, insomma, c'è stata la perdita della AAA sul debito inglese nel fine settimana da parte dell'agenzia di rating, e forse proprio anche per questo motivo oggi Londra è molto più fiacca rispetto alle altre piazze europee. L'euro sul dollaro a 1,32,69, i migliori titoli di Piazza Affari, tutti in grande spolvero i titoli del settore bancario: Unicredit più 3,85, Mediobanca più 3,64, Intesa più 3,49, Mediolanum mi rialzo di 3 punti, Ubibanca più 3, Popolare di Milano più 3, e tra tutte le banche si infila anche Buzzi Unicem, che guadagna il 3,06%. In negativo 2 titoli, e peraltro perdono anche molto poco: Impregilo meno 0,10, Terna meno 0,06%. 2 astri, titoli di Stato questa mattina che sono andate bene, però i tassi sono in crescita. CTZ con scadenza 2014, collocati dal Tesoro italiano per 2 miliardi 820 milioni di euro, con un rendimento in rialzo all'1,68% dall'1,43% dell'asta di gennaio. febbraio. Il Tesoro ha collocato anche BTP indicizzati all'inflazione europea, titoli in scadenza nel 2021 e nel 2026, per 1 miliardo e 250 milioni di euro. Per il titolo scadenza 2021 il rendimento è stato del 2,79%, per il titolo a scadenza 2026 rendimento al 3,23%. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, ritorniamo sul tema del lavoro e parliamo oggi di congedi parentali. È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. Dedicare del tempo ai propri figli è un diritto, anche per le mamme e i papà che lavorano. E alcune recenti disposizioni legislative, l'ultima riforma del lavoro, ma non solo, hanno portato novità importanti, con nuove opportunità da cogliere e nuove procedure da conoscere. In alcuni casi le cose si fanno più semplici. I certificati medici che giustificano l'assenza dal lavoro di un genitore a causa della malattia del figlio, ad esempio, vengono ora inoltrati direttamente dal medico che ha in cura il minore ai datori di lavoro interessati, attraverso il sistema già attivo per le trasmissioni dei certificati medici di malattia dei dipendenti e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. Dal 1 gennaio 2013, inoltre, è possibile fruire del congedo parentale anche nella modalità a ore. I contratti nazionali del lavoro dovranno individuare le modalità di fruizione e i criteri di calcolo della base oraria. I lavoratori che diventano papà dal 1 gennaio 2013 devono obbligatoriamente astenersi dal lavoro per una giornata e facoltativamente per altre due. Per tutte e tre le giornate, da dedicare alla cura del nuovo arrivato, è prevista piena retribuzione. Per le mamme invece viene introdotta la possibilità di sostituire, in tutto o in parte, il congedo parentale con la fruizione di servizi a tutela del bambino, per un valore di 300 euro al mese. Un'opzione è quella dei voucher per la retribuzione della babysitter, ma si potrà usufruire anche di altri servizi resi dalla rete pubblica per l'infanzia o da servizi privati accreditati. Le disponibilità finanziarie per coprire questi costi, identificati come la versione 2013 del cosiddetto bonus bebè, sono però limitate. Le madri che volessero utilizzarli dovranno presentare una domanda all'INPS e rientrare in una graduatoria. È per te ogni cosa che c'è, nana. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Ribadisco, oggi vorrei ascoltare le problematiche che ci vorranno porre mamme e papà all'ascolto, che non sanno bene come gestire con il proprio datore di lavoro queste situazioni e soprattutto tutte le novità delle quali parliamo questa mattina. Forse Alessandro Rotaporta, lei che peraltro ha anche un bambino piccolo, magari non ha bisogno di chiedere al suo datore di lavoro un congedo parentale, perché credo che lei sia il datore di lavoro di se stesso, se non mi ricordo male. Detto questo, quali sono, tra tutte le novità delle quali abbiamo parlato e riassunto nella nostra scheda, quelle che lei ritiene siano quelle di maggior portata, anche tra quelle introdotte appunto dalla riforma Fornero, perché non sono tutte novità che arrivano da quella fonte legislativa, diciamo? Ma partiamo da, diciamo, dai certificati della malattia del bambino, che dovrebbero viaggiare online anche questo. Diciamo che è un tassello che si va a inserire nella telematizzazione dei certificati medici di malattia, quindi il procedimento sarà lo stesso. Qui manca ancora, per la piena operatività, manca ancora un decreto attuativo, però quando ci sarà questo ultimo tassellino, anche questi viaggeranno online, quindi il genitore che porterà il bambino dal medico, dal pediatra, diciamo il pediatra automaticamente, esatto, dovrebbe fare la trasmissione del certificato medico all'INPS, e questo arriverà al datore di lavoro, all'intermediario, e quindi si avrà contezza del diritto alla fruizione dei permessi collegati. Quindi questo è una cosa che dovrebbe facilitare un po' il giro dei certificati. Certo. Poi, in genere la mamma può stare a casa nel medesimo numero di giorni di cui ha bisogno il bambino per guarire? Sì, no, lì ci sono dei limiti. Praticamente, allora, se nei primi 3 anni di vita del bambino non ci sono limiti di tempo, quindi sono liberi, sono permessi per i quali non spetta la retribuzione, ma sono coperti dalla contribuzione, le assenze sono coperte dalla contribuzione figurativa. Mentre invece, se il bambino ha tra i 4 e gli 8 anni di età, spettano 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, che non sono fruibili contemporaneamente, e ovviamente lo stato di malattia, come dicevamo adesso, deve essere certificato. Quindi lo spartiacque è il bambino con età fino a 3 anni o oltre 3 anni, fino a 3 anni illimitato e poi 5 giorni fino agli 8 anni, quindi sono dei limiti. Il congedo per la malattia generalmente lo prende la mamma, ci sono dei casi in cui lo può prendere anche il papà, rota porta? Sì, perché appunto, ad esempio, se ovviamente si tratta di del genitore che sia lavoratore, può essere sostituito anche dall'altro genitore, ad esempio appunto possono, l'unico vincolo è che non vengano fruiti contemporaneamente tra i due genitori, quindi o uno oppure l'altro. Certo. Maria Rosa Gheido, un'altra novità importante è stata l'introduzione appunto con le normative recenti dei cosiddetti congedi parentali, che possono essere fruiti anche ad ore subito. Alcune colleghe della redazione mi hanno chiesto: ma questo da quando sarà possibile? Intanto se ne può fare già richiesta, oppure ancora attendiamo degli aggiustamenti legislativi, delle norme attuative per completare appunto il quadro normativo di riferimento? Sì, io credo che questa sia una delle misure più interessanti introdotte fra le molte novità che lei ha citato all'inizio, perché interessa indubbiamente una notevole pluralità di lavoratori. C'è però un handicap non da poco. La norma di per sé è operativa ed è in vigore, però demanda alla contrattazione collettiva dei singoli comparti la disciplina di come chiedere le ore, come distribuirle, e la ragione di questo appare evidente. Finora il congedo parentale, che può essere fruito dai genitori con un limite di mesi, 6 mesi indicativamente, a favore della madre o del padre, che possono diventare anche 7 se costui che chiede i permessi, ecco, venivano chiesti anche frazionatamente, ma con un limite invalicabile che era quello giornaliero. Si voleva così evitare che in qualche modo i congedi parentali diventassero una forma surrettizia di lavoro a tempo parziale, al quale peraltro il datore di lavoro non poteva opporsi e non può opporsi. Ora, questo è stato contemperato dalla disposizione dicendo: tutto fermo finché non saranno i singoli contratti di settore a disciplinare la materia. Pertanto potrebbero entrare in vigore a seconda dell'attenzione che i singoli contratti porranno all'argomento, ma in modo diversificato, vuoi nel commercio piuttosto che per i giornalisti, e non ci sarà quindi una data di effettiva operatività finché il contratto nazionale non disciplini. Tra l'altro io vedo che questo lei già lo scriveva a fine dicembre, occorre attendere la regolamentazione, ma da parte risulta che nulla è cambiato. Nessuno è cambiato, quindi nessun settore sia al momento attivato. È una materia, mi creda, molto delicata, perché è chiaro che mentre la richiesta di part-time da parte della lavoratrice che rientra dopo il congedo di maternità non è un obbligo concederlo per il datore di lavoro, bada alle sue esigenze e poi vede se può o meno aderire alla richiesta. Ecco, il congedo parentale invece non può essere negato, e quindi la materia è effettivamente difficile da gestire. Ecco, dato per certo appunto, come lei ci anticipava, che ogni settore poi si muoverà a seconda della sua sensibilità anche nei confronti di questo problema, però ecco, esistono dei paletti che la legge definisce sul congedo ad ore, almeno quante dovrebbero esserne rese disponibili al genitore, appunto c'è comunque un tetto minimo di partenza? Il tetto è quello previsto in generale per i congedi parentali, che sono praticamente 6 mesi potenzialmente per ciascun genitore, con il limite però dei 10 mesi per entrambi i genitori considerati complessivamente, nell'arco temporale che va fino agli 8 anni di età di ciascun bimbo che è in famiglia. Quindi questo sarà comunque il tetto. Ed è chiaro che la fruizione ad ore sarà una fruizione a contatore, quindi bisognerà ricostruire quell'arco temporale che oggi ci siamo abituati a gestire, per esempio a giornate, con sommatoria delle giornate, e non si può comunque superare il limite massimo previsto dal decreto legislativo 151. Quindi abbiamo, insomma, con tutte queste novità, dei punti di partenza molto precisi, altre situazioni sono invece ancora in divenire, per cui chiaramente per tutti i neopapà e tutte le neomamme bisogna tenere sotto controllo appunto l'evoluzione della normativa. Direi che possiamo già fermarci per la nostra prima pausa, poi cominceremo a sentire le domande dei nostri ascoltatori, dei nostri amici che ci chiamano da casa all'800 24 00 24, che ci scrivono al 349 238 6666. Vorrei anche sentire subito il nostro Mario, che sta per ridiventare padre, questa volta di due gemelli, oppure non so se sta per ridiventare padre ancora di due gemelli, quindi fa quattro. Comunque, Mario, come la mettiamo? I nostri vivi complimenti. Sentiremo tra un po' il suo quesito. Adesso primo stop pubblicitario, il meteo, e poi ci risentiamo subito dopo. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Eccoci ritrovati in diretta ancora, buongiorno da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi parliamo di congedi parentali, un termine complicato per definire invece tutte quelle situazioni di permesso di cui mamma e papà hanno bisogno per gestire le situazioni appunto di emergenza anche della famiglia, bambini che si ammalano, che prendono l'influenza, ma tante altre cose da fare con loro e che richiedono qualche volta di assentarsi dal lavoro. Allora, cosa è successo? Che il quadro normativo sui congedi parentali si è modificato negli ultimi tempi, un po' per effetto di alcune novità introdotte dalla legge di riforma del lavoro Fornero, ma anche altri interventi sono stati fatti dal decreto sulla crescita, dalla legge di stabilità, per cui questa mattina abbiamo messo tutti insieme per raccontare a mamma e papà all'ascolto le novità. Abbiamo spiegato prima con Alessandro Rotaporta tutto il campo relativo alla trasmissione dei certificati medici, lavoro che deve fare naturalmente il pediatra quando il piccolo si ammala, per cui si interfaccia quasi direttamente con il datore di lavoro. Abbiamo parlato della novità importante del congedo ad ore, non operativo ancora nel nostro paese perché la sua applicazione è demandata alla sottoscrizione di accordi appunto collettivi. Che cosa ci manca di raccontare? Il fatto per esempio che i lavoratori che sono diventati padri dal 1 gennaio del 2013 devono obbligatoriamente astenersi dal lavoro per una giornata. Alessandro Rotaporta, e se non vogliono farlo, ma io credo che vogliano condividere la gioia del nuovo nato, naturalmente almeno il giorno della nascita, oppure peraltro questa giornata può essere scelta anche in un altro momento, questa astensione obbligatoria dal lavoro. Può essere, allora la norma parla appunto di un obbligo, quindi non è accompagnato a una sanzione, però è individuato come un diritto indisponibile, quindi di fatto dovrà essere fruito dai lavoratori. E può essere usufruito nei 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Quindi, non deve essere coincidente con la giornata della nascita. No, se si vuole farlo coincidere con la giornata della nascita, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo la data presunta del parto della moglie, per dare quindi modo all'azienda di organizzarsi. Poi accanto a questa giornata che è obbligatoria se ne possono affiancare altre due, sempre da usufruire nell'arco temporale successivo, dei 5 mesi successivi alla nascita del figlio. In questo caso però è la mamma che deve rinunciare a 2 giorni di congedo di maternità e ne deve dare comunicazione scritta al proprio datore di lavoro, e la stessa cosa dovrà fare il padre, quindi allegando la rinuncia da parte della madre a questi 2 giorni di congedo che a questo punto usufruirà lui con retribuzione al 100%. Quindi praticamente queste 2 giornate il papà non ne può usufruire simultaneamente alla mamma. Questa è una questione che magari un pochino potrebbe anche complicare, no? Però magari se la mamma prende solamente i 3 mesi di maternità obbligatoria, poi torna al lavoro, magari ecco, il papà ne può approfittare nel periodo successivo. Sì. Che va comunque, sono 2 giorni che vanno in riduzione del congedo della madre, quindi lui poi ancora ha tempo i 5 mesi successivi alla nascita, però ovviamente la madre ne deve rinunciare per forza, ecco, quindi sono alternative. In queste 3 giornate, tra la obbligatoria che prende il papà, la giornata obbligatoria e le 2 facoltative, la retribuzione per il papà rimane inalterata? Sì, la retribuzione è pari al 100% ed è a carico dell'INPS, sarà quindi il datore di lavoro che andrà a scomputare dai contributi dovuti all'INPS questi importi che corrisponderà al padre lavoratore. Allora, andiamo alle domande dei nostri ascoltatori. Peraltro, prima di sentire Mario da Cremona e Anna da Pescara che sono pronti telefonicamente, volevo invece leggere la mail che ci ha indirizzato a salvadanaio@radio24.it una mamma, Francesca, che ci racconta come si può, ci chiede come possiamo suggerire che lei si possa tutelare dal perdere il posto di lavoro dopo l'anno di età del bambino, visto che da quello che capisco lavora in una piccola realtà imprenditoriale, una SRL con meno di 15 dipendenti. In una piccola realtà l'assenza della madre è una difficoltà per la società, c'è il forte rischio di non avere il part time, considera Francesca. Allora, senza la presenza dei nonni e dell'asilo dopo le 16:30, senza una disponibilità economica che ci aiuti, come posso garantirmi il posto di lavoro rimanendo nei limiti dei miei diritti e doveri, nei limiti dei miei diritti e doveri come lavoratrice e come madre? Allora, Maria Rosa Gheido, diciamo che Francesca solleva una questione di una portata enorme che ci richiederebbe un intero palinsesto. Detto questo, tutte le cose delle quali stiamo parlando questa mattina, i diritti anche al congedo ad ore che non abbiamo ancora pienamente operativo, ma anche tutte le altre forme di tutela e sostegno appunto ai genitori, hanno una qualche relazione anche con l'entità dimensionale dell'azienda di riferimento? Beh, non necessariamente, nel senso che la tutela della genitorialità prescinde dalle dimensioni dell'azienda. È altrettanto vero però che più l'azienda è piccola e più ha difficoltà ad organizzarsi nei confronti di eventi che comportano assenze dal lavoro per motivi che possono anche avere una certa qual durata nel tempo. Però a supporto di aiuto, di cui non abbiamo ancora parlato, ma è una norma anche molto datata, i datori di lavoro di piccole dimensioni possono anche fare assunzioni in sostituzione del personale assente per motivi collegati, io uso il termine genitorialità, ma adesso vorrei dire alla maternità e paternità. Sì, e possono effettuare delle assunzioni a termine in sostituzione con delle agevolazioni contributive, con uno sgravio quindi dei contributi del 50%. Quindi diciamo, ecco, e questo, perché, vale solo per le piccole realtà. Non vale per le grandi, quindi un qualche aiuto lo si trova e lo si reperisce. Oggi, e poi magari ne parliamo meglio, per chi come l'ascoltatrice segnala anche le difficoltà finanziarie, può anche intervenire questo ulteriore aiuto introdotto dalla legge Fornero, che è quello per i servizi di babysitting o per la retta degli asili nido, che eroga 300 euro al mese e tiene conto delle situazioni di difficoltà economica della famiglia. E di cui però anche lì non abbiamo ancora nessuna notizia, esatto, perché aspettavamo un click day, no, per la prenotazione. Sappiamo più o meno tutto, non sappiamo però quel pezzo, ci manca una data, di norma essenziale che è quando e come fare la domanda. E infatti, sarà telematica, ci sarà probabilmente una sorta non proprio di click day, perché la graduatoria non è fatta base all'ISE più che al momento di trasmissione, però ci sarà un termine iniziale e finale per presentare le domande. Ricordiamolo molto sinteticamente, per le mamme che tornano al lavoro rinunciando al congedo di maternità facoltativo c'è questo bonus di 300 euro al mese per 6 mesi entro il primo anno di vita del bambino, a patto di dimostrare il pagamento di un asilo o di una babysitter, per cui deve esserci anche questa certificazione per poter ottenere questo sostegno economico. Andiamo ai nostri ascoltatori e allora, visto che proprio del bonus bebè, chiamiamolo così, stavamo parlando, voucher IMSS lo definisce più precisamente il nostro ascoltatore Mauro da Salerno, per cui subito faccio fare a lui la prima domanda di oggi. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli altri ospiti e radioascoltatori. In particolar modo la mia domanda era finalizzata a conoscere se le recenti innovazioni in materia appunto di congedo parentale, con particolare riferimento alla voucher appunto IMSS erogato dall'INPS per lavoratori genitori, diciamo, possono essere già, diciamo, sono rivolti anche ai dipendenti lavoratori della pubblica amministrazione, o se invece la norma in questione necessita di un'armonizzazione che dovrà avvenire poi successivamente, credo, con i vari dipartimenti della funzione pubblica amministrazione. Grazie Mauro. Alessandro Rottaporta, ce la facciamo a rispondere in 40 secondi prima dei suggerimenti per chi è in viaggio? Sono esclusi i lavoratori della pubblica amministrazione da questo bonus oppure possono farne domanda anche loro? Purtroppo sono velocissimo. Perché la risposta è no e basta. Per ora sono esclusi. Tra l'altro c'è stato proprio la scorsa settimana un parere, quindi è stato richiesto alla funzione pubblica e appunto è necessaria proprio un'armonizzazione che vada a comprendere anche i lavoratori pubblici, quindi al momento non possono rientrare né nel congedo obbligatorio di cui parlavamo prima per la nascita del figlio e neppure nel discorso dei voucher di babysitting o pagamento dei servizi pubblici di assistenza all'infanzia. Capisco. E quindi insomma al momento la pubblica amministrazione è esclusa. Peraltro, a proposito del voucher INPS per i servizi di babysitting, non abbiamo ricordato che in realtà l'importo anche che il governo rende disponibile è abbastanza limitato, 20 milioni di euro in 3 anni, per cui si è calcolato che vi potranno accedere circa 3.300 mamme l'anno. Ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio. Peraltro Maria Rosa Gheido, le dico che un ascoltatore ci scrive che il contratto di lavoro dei chimici è stato appena rinnovato, ma in nessuna riga si parla minimamente del congedo ad ore. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Sì, diciamo che oggi si è attenuto all'ordinario il nostro Marco Lombardo nella scelta naturalmente della colonna sonora che ci accompagna. Maria Rosa Gheido, ha sentito quello che le leggevo poco fa di questa segnalazione di un ascoltatore sul rinnovo del contratto di lavoro della categoria dei chimici, che dice non introduce nessun tipo di intervento relativo al congedo parentale ad ore? Sì, non ho alcuna difficoltà a crederlo, perché i contratti che finora hanno avuto delle ipotesi di rinnovo trascurano questa circostanza. Fra l'altro è anche bene ricordare che la norma è stata emanata non tanto per un eccesso di sensibilità verso la mamma o il papà, quanto per evitare una procedura di infrazione europea, perché la direttiva comunitaria prevede il congedo a ore. Quindi insomma non è stata un'elargizione così. No, e adesso però l'aver demandato alla contrattazione di settore chiaramente libera in qualche modo il paese Italia dall'infrazione, ma non risolve, credo, questa possibilità che invece avrebbe così incontrato molto favore da parte dei lavoratori. Che vi devo dire, signori miei, ci sono le urne aperte in questi giorni e forse anche da lì possiamo mandare qualche messaggio se abbiamo individuato qualche forza politica più o meno sensibile a questi argomenti e che abbia voglia magari dalla prossima settimana in avanti di riaprire questi discorsi, anche perché ci sono dei papà che con un po' di perplessità guardano anche le novità delle quali stiamo parlando questa mattina. Un po' qualcuno le celebra, qualcuno dice non riesco a trattenere un amaro sorriso, ci racconta questo ascoltatore Luigi. Un giorno di congedo a beneficio del papà per la nascita del figlio per me è un'elemosina, dice. Detto questo abbiamo e per adesso portiamo a casa questo. Allora, chi altro sentiamo? C'era un ascoltatore che aspettava da un po', il nostro Mario, 2 gemelli in arrivo. Mario, quanti altri ne ha? Buongiorno. Allora, ce n'è un altro, una bambina di 8 anni, praticamente cercavamo il secondo dopo qualche anno. È arrivato il tris invece. È arrivato il secondo e il terzo. esatto. E niente, la mia domanda voleva essere questa. Allora, per quanto riguarda il congedo parentale per il papà, sono completamente d'accordo con l'ascoltatore di prima, perché un giorno è veramente un'elemosina. Visto come è cambiato il mercato del lavoro, io tante volte sono itinerante, quindi tante volte arrivo a casa la sera che a malapena riesco a vedere un pochino mia figlia, e se perlomeno non te li godi, tra virgolette, almeno i primi tempi, insomma, è veramente un peccato, perché si ha sempre meno tempo da dedicare ai figli, secondo me, ultimamente. Detto questo, la mia domanda voleva essere rivolta al bonus bebè, nel senso, io ero rimasto un attimino non acculturato in materia e volevo capire esattamente che cos'era cambiato, perché l'arrivo di 2 gemelli, io e mia moglie siamo 2 lavoratori dipendenti, ovviamente comporterà dei costi non indifferenti, perché comunque passeggini gemellari, tutto quello che concerne proprio la nascita dei 2 gemelli ha dei costi non indifferenti, e quindi quello che era il vecchio bonus bebè ci avrebbe agevolato parecchio, mettiamola certo. così. E quindi ecco, volevo capire appunto che cosa era cambiato, perché ripeto, non sono informato su questo. Mario, grazie. Allora, intanto Alessandro Rotaporta non è il vecchio bonus bebè del quale parlavamo tanti anni fa, che peraltro ha complicato anche un po' la vita a chi lo aveva ricevuto, quel famoso sostegno, perché poi ci sono stati molti nuclei familiari che, facendo l'autocertificazione della propria situazione reddituale, avevano dovuto anche restituirlo, se lo ricorda, no? Sì, ecco, lo strumento del quale parliamo oggi nell'ambito della rosa dei nuovi interventi appunto di cui parliamo complessivamente questa mattina, in realtà non ha nulla a che fare con quella precedente esperienza. No, perché questo riguarda, appunto, ricordiamolo, è una disposizione introdotta dalla legge 92, quindi dalla riforma sul lavoro, e riguarda la possibilità da parte della madre di usufruire di questo, appunto, di questi voucher, che sono di valore di 300 euro al mese, in sostituzione del congedo parentale. Quindi alla fine del congedo di maternità e entro gli 11 mesi successivi, quando appunto l'INPS, come si diceva in precedenza, aprirà il bando, la lavoratrice potrà fare domanda di sostituire il congedo parentale con questi voucher, oppure con la possibilità che l'INPS paghi direttamente la struttura di assistenza all'infanzia, ovviamente accreditata con il sistema INPS, e quindi in questo consistono questi voucher di cui stiamo parlando. Va detto che quando ci sarà l'apertura del bando, quindi sarà lasciato un arco temporale con un sistema a domanda, quindi potranno presentare le domande, e l'INPS valuterà farà le valutazioni in base al modello ISEE delle lavoratrici, quindi il metro per accesso o meno a questi voucher sarà la situazione reddituale. Poi se quindi dopo 15 giorni dalla chiusura dei bandi vengono presentate le graduatorie con le lavoratrici ammesse alla fruizione di questo servizio, chi ha optato per la riscossione dei voucher, decorsi 15 giorni successivi, potrà recarsi presso le sedi IMSS proprio a ritirare materialmente i voucher di babysitting. Tra l'altro, qui la metto alla prova adesso, Rotaporta, se sa anche questa, veramente io mi inchino a lei. Mario, gli arrivano due gemelli. Il lavoro, la giornata di astensione obbligatoria dal lavoro, il congedo obbligatorio appunto per la nascita del figlio, in questo caso vale per due, quindi lui teoricamente potrebbe fruire di 6 giornate al posto di 3? Ma guardi, ci stavo pensando anch'io mentre appunto parlava di gemelli. E quindi non lo sappiamo, bisognerebbe vedere. Devo dire, anche stavo spulciando la relazione illustrativa al decreto appunto attuativo di questa misura, che è del 22 dicembre del 2012, ma io non ho trovato nulla, però effettivamente... È una considerazione pertinente. Sentiamo un po' come la interpreta la dottoressa Gheido. Ma guardi, siccome poi quando la norma è così oscura si cerca di interpretarla nel modo più favorevole, io leggo un pochino le premesse al decreto, quindi il visto che di solito si scrive nei decreti. Mamma mia, infatti, che le rendono incomprensibili. E qui parla effettivamente sempre di nascita del figlio. Ora, io dico una cosa, che se vuole assistere al parto, necessariamente ne prende una di giornata, questo senz'altro, però volendone invece fruire in modo così, diciamo, libero nei 5 mesi a disposizione, se alla domanda va allegata la certificazione di nascita del bambino, una volta si mette un nome e una volta un altro, non solo, poi ricorderei anche a questo papà che comunque in caso di nascita di gemelli raddoppiano i congedi giornalieri cosiddetti di allattamento e le 2 ore aggiuntive spettano al papà in alternativa alla mamma, quindi se ha la possibilità di farlo potrà anche fruire di permessi per dare una mano alla mamma nell'accudire i 2 gemelli, cosa non facile, perché io ne sono nonna e so per esperienza che non è proprio un gioco. È nonna di gemelli? Sì, dottoressa Gheito, questi segreti io non li sapevo. Ottimo, complimenti a tutti, perché comunque sono una gioia. Allora, io purtroppo non riesco a far intervenire Anna da Pescara, che voleva probabilmente raccontarci il caso di qualche qualche amica di un'imprenditrice agricola con una bambina di 2 mesi, voleva sapere se ha qualche sostegno. La Rosa dei lavoratori autonomi rimane sempre un po' più svantaggiata, a rotta porta, 10 secondi. Dovremmo forse dedicare una puntata apposita a questo ambito? Sì, hanno diritto al congedo, i lavoratori autonomi hanno diritto al congedo obbligatorio, e poi ad esempio per il discorso dei voucher di cui parlavamo prima, ricordiamo che i lavoratori iscritti alla gestione separata, quindi ad esempio non so, i lavoratori a progetto, possono avere 3 mesi di voucher. Ci ritorneremo, grazie a tutti, a domani con lo speciale elettorale.